Sì, dunque io vi farò vedere le immagini che riguardano la mia tesi di laurea, frutto di un'esperienza in Sri Lanka dopo lo tsunami. Aspettate che... Ok, allora, il 26 dicembre del 2004, appunto come voi ricorderete, vedete? Sì. Lo tsunami è arrivato in Sri Lanka, nelle coste della Thailandia e ha colpito anche parte dell'India. Cosa è successo? In questi paesi i 200 chilometri, i 200 metri di costa erano completamente distrutti e come vedete la situazione in questo caso in Sri Lanka era questa. In Sri Lanka c'erano 600.000 persone senza casa e queste sono immagini che ritraggono i primi giorni dopo la catastrofe. In questo caso le persone stanno aspettando gli aiuti umanitari di cibo e acqua. Qua c'è una breve lista della situazione, ovvero che fa vedere che tutto era completamente distrutto. Qua vediamo come le infrastrutture fossero completamente tagliate. Questo impediva gli aiuti di raggiungere i luoghi della distruzione. Le case, come vedete, soprattutto nella zona est del paese, che era molto più povera, erano completamente distrutte, anche perché erano quasi completamente autocostruite dagli abitanti. E questi erano gli ospedali. Tutti gli edifici religiosi, ovviamente, erano andati distrutti e proprio nei primi giorni le persone si sono rifugiate così negli edifici pubblici, ovvero nelle scuole, nei templi, negli spazi che hanno trovato ancora con un tetto. In questo caso questa era una chiesa che era stata poi occupata da una comunità induista. Questo era un altro edificio industriale che era sempre stato riutilizzato dagli abitanti come case. Avevano steso questi teli di plastica e ognuno aveva la propria cellula abitativa all'interno. Cosa è successo? Lo tsunami è stato un fenomeno mediatico incredibile, nel senso che, se voi vi ricordate, in tutto il mondo siamo stati bombardati da queste immagini di catastrofe e di distruzione, per cui tantissime persone hanno inviato soldi e aiuti ai paesi colpiti. In questo caso, tra l'altro, lo Sri Lanka è stato il paese che ha concesso al più grande numero di aiuti rispetto agli altri paesi. Per esempio, l'India ha impedito agli aiuti umanitari di arrivare e la Thailandia ha filtrato in parte gli aiuti. Lo Sri Lanka invece ha accolto qualsiasi tipo di aiuto umanitario, dalla Croce Rossa alla parrocchia di qualsiasi paese ai grandi aiuti umanitari tipo le Nazioni Unite, eccetera, eccetera, le organizzazioni internazionali, insomma. Questa mappa fa vedere come... fa vedere tutte le ONG e tutte le organizzazioni internazionali che sono sbarcate nel paese nei mesi successivi all'evento. E questa mappa invece fa vedere la lista di tutte le ONG presenti. Come vedete erano numerose. Cosa succedeva? Qual era la situazione del paese? Bisognava ricostruire 200.000 case in un paese in cui se ne costruivano circa 4.000 l'anno, per cui un'accelerazione pazzesca. E questa era la situazione. La parte più colpita era la parte est del paese, anche perché era la più povera, era la zona dove c'era la guerra civile da 30 anni ed era quella che si affacciava sul golfo della Thailandia. Nella prima fase le persone hanno ricevuto aiuti umanitari in termini di cibo e delle tende, che venivano consegnate in queste borse tutto fare. Le persone, appunto, facevano la coda per il cibo e il governo ha stabilito una zona in cui non si poteva più ricostruire. Era una fascia di terra di circa 100 metri, che poi diventava anche 50 a seconda degli interessi geografici e paesaggistici. E le persone sono state anche in questo caso deportate all'interno della fascia di sicurezza. In questa fase gli eserciti di tutto il mondo hanno donato le tende dei loro soldati allo Sri Lanka e le persone sono state trasferite in fase temporanea in queste tende. Questo è un esempio dei campi. Nella fase successiva, le organizzazioni internazionali si sono occupate di fornire alla popolazione dei temporary shelter, che non erano altro che delle case temporanee che avrebbero dovuto durare 2-3 mesi. In realtà sono durate molto più tempo. E questo è uno dei modelli di case temporanee costruite. I materiali erano, nonostante ognuno avesse il suo modo di costruirle, i materiali erano sempre gli stessi e quindi erano blocchetti di cemento e le pareti erano sempre di lamiera ondulata oppure di plastica o di foglie di palma intrecciate. Il governo dello Sri Lanka si è occupato di regalare alle organizzazioni internazionali e alle ONG dei pezzi di terra che risultavano liberi e le ONG disegnavano poi il progetto della ricostruzione. E qua vediamo alcuni esempi. La prima pagina è sempre l'area donata dal governo e la seconda pagina è sempre il progetto di ricostruzione. A ogni famiglia che veniva inserita in delle liste veniva regalato un pezzo di terra, all'interno di un pezzo di terra veniva regalata la casa. Poi c'erano delle aree comuni come in questo caso o degli spazi con i servizi. In alcuni casi le aree erano ben posizionate, in altri casi, come in questo caso, non molto, nel senso che spesso erano aree di risulta e non avevano magari le condizioni necessarie alla ricostruzione. Qui, come vedete, avevano già iniziato a posizionare dei temporary shelter e questo sarebbe stato poi il piano futuro. Questo è un esempio di questionario da compilare in caso tu avessi perso la casa e quindi purtroppo è in lingua tamil, quindi è intraducibile, ma si chiede quante persone la famiglia aveva perso, quanto era grande la propria casa, eccetera, eccetera. E cosa succede? Questi sono i transitional shelter e come vedete tutti avevano forme differenti, alcuni erano singoli, alcuni erano dei multipli uniti. Nel tempo le persone hanno cercato di modificarle finché diventavano poi la loro casa. E quindi, come vedete, in questi casi la foto che avete visto prima era già diventata un negozio oppure era diventata aveva una dependance, aveva una cucina annessa. E questi sono alcuni esempi dopo qualche mese. Cioè, chi aveva costruito il secondo transitional shelter in fronte al primo, chi si era creato la staccionata tutto attorno e chi aveva creato la stanza del figlio piccolo o degli animali da... addirittura in questo caso si erano fatti la seconda casa. Questi sono altri casi e questi sono tutti gli esempi di shelter che erano stati prodotti a seconda dei finanziamenti e dei progetti delle organizzazioni. Questi sono altri ancora. E questi erano disegni che erano arrivati da chissà dove in Europa, erano sbarcati in Sri Lanka e sono stati poi interpretati e posizionati nei campi dei beneficiari. Cosa succede? Dopo un anno lo Sri Lanka ha quindi 600 nuovi villaggi, che sono tutti questi puntini blu, spero si vedano, e sono tutti all'interno di questa buffer zone che era la fascia di sicurezza stabilita dal governo. Questo ha provocato problemi non solo perché comunque le aree erano già state colpite dalla guerra civile, eccetera, ma anche perché le persone che tendenzialmente avevano un mestiere legato alla costa, legato al mare, quindi erano pescatori, non avevano di che lavorare e quindi si ritrovavano a vivere in queste aree lontane dal mare senza un'attività giornaliera. Nella terza fase le ONG si sono occupate di spostare le persone dalle case temporanee a delle case vere e proprie. e quindi sono occupate di disegnare dei progetti di case che fossero economiche ma che permettessero alle persone di viverci per sempre. E questa è stata forse la fase più complicata, non solo perché dovevano essere molto economiche, ma dovevano anche essere costruite molto in fretta e dovevano essere adatte a tutte le popolazioni. Queste sono le prime case ricostruite. Come vedete, spesso le ONG si occupavano di far costruire ai beneficiari stessi le case, le proprie case. E qua, come potete vedere, si inizia a vedere la fase di transizione tra le case temporanee e le case permanenti. Cosa succede? C'erano due modi per ricostruirsi la propria casa. Se la casa era stata completamente danneggiata, si otteneva una casa nuova. Se la casa non era stata completamente danneggiata, si riceveva soltanto un fondo che serviva a completare la casa semidistrutta. Il processo di ricostruzione è stato molto difficile, non solo perché le case da ricostruire erano tante e i problemi burocratici e organizzativi erano tante, ma anche perché le persone difficilmente capivano i disegni, capivano le organizzazioni, capivano come organizzare le cose, capivano come gestirle. In questo caso quindi venivano organizzati dalle ONG dei workshop in cui le persone potevano esprimere i loro pareri e in cui venivano disegnate le case che sarebbero state ricostruite e le persone avrebbero potuto dire la loro opinione. E questi sono alcuni esempi. Questo è un altro esempio in cui l'ONG ha deciso di provare a mettere questi stecchini con degli spaghi intrecciati per dare un'idea della dimensione degli spazi. Cosa succede? Questo processo, soprattutto in Sri Lanka, è stato molto delicato e difficile proprio perché lo Sri Lanka ha una storia religiosa molto complessa. Innanzitutto c'è da dire che lo Sri Lanka è stato colonizzato ben 4 volte dagli inglesi, dai portoghesi, dagli olandesi e chi manca? Non me lo ricordo, dai danesi. Come vedete in questa mappa, le 4 religioni dello Sri Lanka sono Islam, buddismo, induismo e cristianesimo, che hanno tra l'altro una geografia abbastanza mescolata, a parte i buddisti e gli induisti che vivono nelle parti opposte del paese proprio perché sono in guerra da ormai anni. Qui vi racconterò alcuni casi ricostruzioni in cui le religioni e le credenze religiose si sono opposte a una ricostruzione seriale e precostituita delle ONG. Questo è un piccolo villaggio alle porte della città dove io vivevo ed era un'enclave musulmana. In questo caso la comunità musulmana ha richiesto di poter avere dei fogli di lamiera ondulata per coprire completamente le case temporanee in modo che le donne delle famiglie non venissero viste e quindi si erano barricati completamente. Per quanto riguarda i progetti di case vere e proprie, le richieste erano diventate anche più complicate, nel senso che in questo caso non volevano finestre sui lati, ma volevano tanto finestre sul fronte e sul retro. E le stanze delle case dovevano essere separate soltanto da tende, quindi non erano necessarie le porte. Ma soprattutto ci doveva essere una zona molto ben separata all'interno della casa per l'uomo e per la donna. E scusate, la parte dell'uomo era la parte che voi vedete a vostra sinistra in questo caso e la parte della donna era a destra che era la cucina e la stanza da letto. Gli induisti avevano altri tipi di superstizioni, in questo caso queste piccole immagini descrivono il processo di inizio di costruzione di una casa. Essendo molto, molto superstiziosi, loro si rifacevano a questo almanacco che riportava i giorni e le ore propizie alla costruzione o alla gestione di alcune cose importanti nella vita delle persone. In questo caso l'ora stabilita dal Manacco erano le 4:30 di mattina o le 5, e quindi era l'ora propizia per iniziare a costruire la casa. E questa era la cerimonia di posa della prima pietra, praticamente, che voi vedete poi nell'ultima pagina. Anche dal punto di vista progettuale c'erano delle cose da rispettare. In questo caso, per esempio, i muri non si potevano incrociare e le finestre non potevano mai essere di fronte alle porte. La cucina doveva essere affacciata a est e il bagno non era gradito vicino alla casa, come potete vedere. Un'altra cosa molto curiosa era il fatto che, nonostante le persone fossero in luoghi temporanei e in posti che non appartenevano alla loro cultura, e soprattutto che avrebbero dovuto stare lì per un periodo molto breve, nonostante tutto hanno ricostruito i loro luoghi sacri all'interno dei campi, e questo è uno dei tanti prodotti. Questa tavola riassuntiva propone una rivisitazione dei progetti dell'NG a seconda delle religioni. Cioè, la prima pianta descrive il progetto, come è arrivato dall'Europa o da un paese occidentale e cosa è diventato a seconda delle religioni presenti. Quindi nella prima fascia abbiamo gli induisti, nella seconda fascia abbiamo i musulmani, nella terza fascia abbiamo i buddisti. Ah no, i cattolici, nella quarta fase abbiamo i buddisti. Questo è un altro esempio che secondo me è interessante vedere, e che è un progetto disegnato da un architetto abbastanza famoso, che è giapponese, si chiama Shigeru Ban, che si è occupato di disegnare queste case nel sud del paese, che apparentemente sono molto belle, ma che sono state poco gradite dai beneficiari proprio perché troppo aperte. Come vedete, gli interni erano completamente aperti e areati, e questo era positivo perché comunque il clima dello Sri Lanka è molto caldo, ma era negativo proprio perché la popolazione che ci doveva vivere in questo caso era musulmana, e quindi non gradiva che le donne venissero viste e che soprattutto ci fossero così tanta permeabilità nelle case. E questo è un altro caso molto curioso, era un caso di villaggio ricostruito dal governo turco. In questo villaggio tutto era tema turco, come potete vedere. E niente, per concludere, questa è una frase che ho ripreso da un architetto indiano che ha partecipato alla ricostruzione, e dice: dipende da come la guardi, questa è stata una delle ricostruzioni meglio finanziate e dall'altra parte una delle emergenze umanitarie più costose che siano mai esistite.